Ciao a tutte e tutte, bentornati su Radio ZM. Queste sono le dirette dal Nuovo Mondo. Io sono Cesa. Come al solito qua con me c'è, con me virtualmente c'è il Mene. Ciao. E per l'occasione abbiamo un ospite appunto d'occasione con noi. C'è Matteo, che ci chiami direttamente. Ciao. Da... Ciao a tutti e tutte, saluto da Buenos Aires. Ok, ci chiami da Buenos Aires. Sì. Come ti avevamo accennato un po' nel fuori onda, noi partiamo di solito con le classiche conversazioni d'ascensore. Quindi, ad esempio, io so che lì sta iniziando l'inverno. Sì. Com'è il tempo, sì, in questi giorni? Ma in realtà sino a oggi le giornate erano abbastanza buone, cioè c'era un sole che scaldava un po' i corpi e le anime che in questo momento difficile hanno bisogno di scaldarsi un po', però oggi sta tornando l'autunno, quindi nuvole, pioggia, è un po' di fresco. Certo. Dovrebbe piovere questa notte. Dovrebbe piovere, sì. Diciamo da una sponda, sì, e dall'altra sponda del Rio della Plata dovrebbe piovere. Sì, esatto. Sì, diciamo, sì, che è sempre il tempo che c'è a Buenos Aires è quasi sempre come quello che c'è a Montevideo, un po' più meno ventoso, mi sembra l'idea. Quindi tipo probabilmente lì è già brutto adesso, comunque è già più brutto perché qui per esempio c'è un sole, ancora una giornata bellissima, però è previsto che arrivi. Giusto una nota. Diciamo che quello che succede a Montevideo sono le stesse cose che succedono a Buenos Aires, però in una dimensione più piccola. Non a caso gli argentini sono da tempo che diciamo vogliono annettere l'Uruguay come presidente argentina, in quanto dicono che siamo copioni. Certo. E anche il clima quindi copia. Certo, sappiamo di questa diatriba tutta interna ai due paesi. Oh, volevo dire una cosa agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché io nella mia testa mi ero detto facciamo finta di essere in diretta e facciamo la roba fake di essere in diretta, ma visto che sulla radio di Zam, cioè ci sono solo persone vere, dobbiamo svelare l'arcano, cioè che noi non siamo in diretta ma stiamo registrando tutto. Perché in verità siamo ieri. No, esatto, siamo ieri sera, per chi ci sta ascoltando. Perché per questioni di fuso orario, tempi di lavoro, cose, abbiamo trovato questa cosa. Quindi io sono nella mia cameretta, a casa mia, e davanti al mio computer che sta come un bravo R2D2 registrando tutto. E questo è quanto. Tu, Matteo, prima dicevi giustamente le ultime giornate di sole che ci scaldano anche l'anima in questo periodo difficile. Quindi ti chiedo com'è la situazione in Argentina, sia sanitaria che economica, diciamo. Beh, diciamo che è una domanda un po' complicata perché in questi giorni la situazione sta... diciamo che si sta complicando, nel senso che ora siamo, se non sbaglio, al giorno 62-63 di quarantena. Ok, quindi lì la quarantena ancora va avanti. Sì, va avanti, hanno cambiato alcune misure restrittive, nel senso che alcune attività hanno riaperto, okay, sempre ovviamente tenendo le serrande abbassate e non permettendo l'affluenza del pubblico. Certo. Però è una situazione che non è riuscita a gestire al meglio l'andamento dei contagi. Cioè si è passati dopo due mesi di quarantena a raddoppiare il tasso di contagio, okay, il famoso R0. Sì. A differenza per esempio di altri paesi come nell'emisfero sud, dico, che avevano il vantaggio il vantaggio stagionale, certo, come l'Australia o la Nuova Zelanda, si riuscite a contenere di più l'onda, diciamo, i contagi. Con l'Argentina ora si sono alzati un po', quindi stiamo tutti aspettando per vedere cosa ci diranno le autorità. Certo, ma senti, più o meno di che numeri parliamo, grosso modo? No, cioè sono numeri molto inferiori rispetto a quelli europei. Siamo all'incirca, credo, sui 7.000-8.000 contagi e qualche centinaia di decessi. Ok. Il fatto è che il virus è entrato nei quartieri precari. Quando parlo di quartieri precari, parlo di quartieri dove all'interno delle case possono vivere due o tre famiglie, dove condividono un bagno 15 persone, dove per 15 giorni alle volte ci sono problemi con l'acqua, quindi non si riescono a mantenere le condizioni sanitarie, certo, ottime. E il fatto è che è entrato ufficialmente il virus, è entrato in quelle che qua in Argentina si chiamano vicia miseria. Però okay, ora vediamo. Io sono fiducioso un po' per il governo, un po' meno per la gente in generale, ma questa è una mia condizione di vita. Bravo, guarda, mi trovi perfettamente d'accordo. Anch'io tendenzialmente penso che gli esseri umani siano delle persone orribili, quindi ti capisco. Però vediamo un po'. Allora, un po'. Io... A livello di economia... riassumo, siamo nella merda. Sono un... Ok, detto proprio in tre parole, siamo nella merda. Perché, però, non per il coronavirus, però. No, ovviamente no. Cioè, però non è così chiaro, magari se puoi spiegare un po' anche dalla situazione dalla quale si trovava prima del coronavirus. Sì, la situazione è che durante... Aspettate un attimo, però io devo... chiedervi una cosa, perché chi ci sta ascoltando non ha la più pallida idea di chi tu sia, di cosa tu voglia, di cosa ci faccia su queste frequenze, cioè, ma chi cazzo sei? Io presentati un po'. Quindi, il mio nome l'hai già detto, Matteo. Sì? Il mio cognome è Maiorana, sono di Bolzano, come si nota l'accento. Certo. No, sono sardo di Sassari. Vivo in Argentina ormai da 2 anni e mezzo, 3. Sono di famiglia argentina, nel senso che mio padre era argentino, esiliato durante la dittatura, che poi si è stabilito in Sardegna, conosciuto mia madre. E io sono venuto qua in Argentina, diciamo, in pianta stabile. Se mia madre ascolta questo, pianta stabile, viene all'istante, quindi non condividete il link alla mamma. Sono venuto quindi qua 2 anni e mezzo fa tramite un progetto di cooperazione internazionale per collaborare con un'associazione abbastanza conosciuta che si chiama Abuelas de Plaza de Mayo. No, è nato un amore, diciamo, mutuo, qua dicono mutuo, un amore tra me e l'associazione, e tra l'associazione e me, siamo innamorati a vicenda e ho deciso di rimanere e iniziare, diciamo, un percorso assieme all'associazione di quella che è la costruzione dell'archivio storico, perché io ho studiato e sono, tra virgolette, non sono un archivista, ma lo sto diventando. Okay. Ho studiato storia a Cagliari, niente, quindi... A proposito di archivi e di ripescare cose, so che diciamo a chi ci sta ascoltando che la musica che sentirete è stata scelta dal nostro ospite d'eccezione. Dai tuoi archivi so che hai ripescato la prima canzone che volevi mandarci. È una canzone sarda, di un gruppo sardo. No, in realtà la canzone è di un artista sardo di Sassari, si chiama Futan, okay. E si chiama Biatan Yarrai. Ora ci sono, qua ci saranno i Nazi Grammar dei paesi dell'escaleria. Io sono una capra in tutte queste cose, quindi farò errori, erroracci. Comunque è un pezzo che parla di come l'azione politica si deve muovere, diciamo, su due binari, che uno è quello dell'astuzia e dell'intelligenza e l'altro è quello della forza, non intesa solo come forza brutta, ma anche come una forza di volontà, una forza d'animo, una forza di unione e una forza di andare avanti nonostante le difficoltà. Beh, direi che questa prima canzone è perfettamente in linea con le corde di Radio ZM. Allora noi andiamo ad ascoltarcela e ci ritroviamo sempre qui a diretta dal Nuovo Mondo. Serve studio e poi analisi politica, il tuo dubbio discusso con precisione scientifica e portare anche una verità analitica alla critica, ma fin dall'antichità la pratica e verifica la scura il braccio e scaccia le paure dandoti il coraggio, è la forza del messaggio nel messaggio, è il rinnovo del linguaggio e dell'estetica, è la potenza eretica ed il corto nel cablaggio. La serpe invece è lucida, fredda e calcolatrice, lontana dalle luci, non s'atteggia meretrice, si confonde fra la gente, pare quasi un elettore, un'elettrice, ma in mente più che cuore c'ha l'idea come matrice. La scura invece spavalda e pecca un po' di vanità, le piace tanto alla stampa che ne fa celebrità, lo sa, Carrero Blanco vola nell'aldilà, se là serve il suo canto, la scura e la libertà. Balla gli spettri come non mai, se c'è la danza della serpe la scura. Studi, analizzo pure, vedrai che la forza è niente senza la fume. Balla gli spettri come non mai, se c'è la danza della serpe la scura. Poi concretizzo pure, vedrai che niente è la mente senza gli acule. La scura è precipitosa, serve la serpe a domarla, che le parla in rima o prosa con l'intento d'affilarla, le si stringe intorno al manico quasi a bloccarle l'alito, evitando che il nemico antico riesca a catturarla. La scura però si scuote spesso svegliando la serpe, che si perde in stanze vuote della mente risultando inerme. La scura è enorme ma agile alla parkour, difende la fragile serpe dalle sue paure. La serpe è l'onestà intellettuale, l'ideologia di base applicata con strategia alla fase attuale, e il pensare il criticare prima d'attuare, far passare l'utopia al progetto, alla via del progresso. La scura è la forza della passione, taglia in due la scorza della pressione e della repressione, è l'essere solidali fra persone, gli ideali per timone, ali della rivoluzione. Tandu, balla gli spettri come non mai, se c'è la danza della serpe la scura. Studi, analizzo pure, vedrai che la forza è niente senza la fume. Balla gli spettri come non mai, se c'è la danza della serpe la scura. Poi concretizzo pure, vedrai che niente è la mente senza gli acule. Bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio ZM, qui è sempre diretta dal Nuovo Mondo. Ricordo a chi ci sta ascoltando che ci può trovare su tutti i social, cioè sui due social più utilizzati, Instagram e Facebook, ma ci trova anche su Telegram, sia con il canale Telegram dove ricevere tutte le informazioni, le varie dirette in tempo reale, sia sulla chat radiozam_chat per scriverci in diretta o non in diretta, o per chiederci delle cose e proporci qualcosa. Ok. Vogliamo, vabbè, entriamo un po' magari nella, più nella parte più succosa appunto dell'argomento, non che la vita di Matteo e la sua presentazione non fosse interessante. Dunque, vabbè, colgo l'occasione intanto per segnalare il fatto che assolutamente per casualità, anche perché dovevamo poi fare questa chiamata ieri, poi è successo di farla oggi, però appunto la casualità ha voluto che la facessimo oggi, che qui in Uruguay è il giorno dove si fa ogni anno la Marcia del Silenzio, che è una marcia celebrativa giusto per, diciamo, per denunciare l'impunità e il silenzio delle istituzioni nei confronti dei responsabili della dittatura, dei gerarchi, dei militari. E giusto, abbiamo come ospite Matteo, appunto, che lavora per l'associazione delle Abuelas di Plaza di Mayo, che diciamo si occupava purtroppo dello stesso del fenomeno storico simile, diciamo, dall'altro lato del fiume, ma nello stesso periodo e con le stesse dinamiche, con un'intensità maggiore dovuta alla popolazione anche maggiore, quindi con una proporzione più pesante. E non so, Matteo, se vuoi presentare un po' l'associazione, cosa, il lavoro che fanno le Abuelas, spiegare un po' vagamente la storia, come sono nate. Ok, allora, le Abuelas, che in italiano significa nonne, quindi sarebbero le nonne di Plaza de Mayo, che è una piazza di Buenos Aires, in particolare la piazza che sta di fronte al Palazzo Presidenziale, la Casa Rosada. Sono un'associazione di familiari che è nata come una risposta spontanea a la scomparsa e l'appropriazione dei figli e dei nipoti. Cioè, a differenza delle madri, che è un altro, diciamo, gruppo, sono le madri che hanno denunciato la scomparsa dei figli, le Abuelas denunciano la scomparsa di due generazioni. Però aspetta un secondo, la scomparsa dei figli e dei figli e dei nipoti delle generazioni di, appunto, cioè durante il periodo della dittatura. Sì, volevo dire, cioè, perché magari vai, non tutti tengono. Sì, una scomparsa, sì, dico, è una scomparsa che non è una scomparsa casuale, sennò che sono dei delitti che sono stati commessi durante il periodo della dittatura civico-militare, dove c'era, diciamo, una forma sistematica di far sparire le persone, che principalmente erano persone che appartenevano all'opposizione del governo, dove appunto il governo, tramite, diciamo, i militari e la polizia, faceva sparire le persone. E le Abuelas quindi si occupano di denunciare il fatto che ci fossero questi delitti, e anche di trovare i figli dei figli, quindi i nipoti che sparivano assieme ai genitori. Non so se avete capito. Sì, cioè, vediamo se ho capito. Praticamente i desaparecidos, quindi quelli che venivano fatti sparire, sì, avevano dei bambini piccoli che sparivano pure, sì, loro. Sì. E quindi, diciamo, l'obiettivo, sì, dell'Abuelas è di ritrovare questi bambini che ormai non sono più bambini. Esattamente, sì. I casi erano, cioè, diciamo che sono svariati, perché alcuni bambini che erano già nati venivano, diciamo, rapiti assieme ai genitori e venivano dati o abbandonati direttamente nelle vicinanze del luogo del rapimento dei genitori, e quindi poi arrivava una pattuglia di polizia, arrivava i vicini che prendevano un bambino e lo portavano in un orfanotrofio dove lì già c'era in atto tutto un sistema di traffico illecito di minori. Oppure i militari mi davano direttamente, quando i bambini soprattutto erano molto piccoli, già nati, però sto parlando dei bambini nati e scomparsi assieme ai genitori, i militari li davano a famiglie vicine. Allora, sto parlando di neonati sostanzialmente. Come? Bambini, diciamo, prima della coscienza, ovviamente, diciamo bambini degli 0 ai 2 anni, neonati. Sì, okay. Dei neonati venivano dati a famiglie, a conoscenti, i quali, attraverso un sistema abbastanza strutturato di medici, giudici, ovviamente poliziotti e militari, o riuscivano a ottenere quella che si chiama l'adozione piena, che è praticamente un'adozione che elimina il tuo passato, o direttamente li registravano come figli propri, nati in casa. Okay. E quindi diciamo che le abuelas nei primi anni, tramite delle segnalazioni, o per esempio di vicini di casa, dei genitori che si erano appropriati del bambino, da un giorno all'altro vedevano che la famiglia aveva un bambino, poi avevano sentito che c'erano delle signore che stavano cercando i nipoti, quindi hanno fatto una denuncia. Le abuelas, quindi, all'inizio, in una forma diciamo molto rudimentale e artigianale, andavano lì, facevano gli appostamenti e scoprivano che i loro nipoti erano nelle mani di altre famiglie, e la maggior parte delle volte delle famiglie complici o consapevoli dei delitti che erano stati commessi. Sì, poi, quindi, oltretutto, immagino erano legalmente nelle mani, cioè diciamo a livello di giustizia dello Stato dell'Argentina, queste famiglie non avevano diciamo un'adozione impropria, erano proprio i loro figli adottivi veri, cioè per lo Stato argentino. Sì, è quello che stavo dicendo prima, c'era tutto un sistema tra medici e giudici dove appunto o si dava l'adozione piena o direttamente si registravano come figli propri, nati in casa. No? Cioè, veniva registrato un parto in casa, quindi c'era l'ostetrica che si occupava di firmare il certificato di nascita con il medico, e certificavano che un bambino era nato in tal giorno in casa X, e che il figlio di una famiglia che in realtà quel figlio non ha mai avuto, che invece era frutto di un delitto abbastanza grave. Quindi le abuelas nel tempo, ovviamente, sto parlando inizialmente prima, perdonami, nella fase che dicevi adesso, più d'inizio della lotta, diciamo, delle abuelas, questa fase degli appostamenti, loro fino ad ora, diciamo, avevano ovviamente prove, diciamo, forti di sospetti, però non avevano una maniera in questo momento di provare il fatto che questi non esistevano degli strumenti legali per poter riuscire a riavere i nipoti, ma anche a far scoprire la verità, no? Tramite un iter giudiziario, che non c'erano proprio gli strumenti, non esistevano gli strumenti, cioè in realtà, no, immaginatevi, era una signora. Gli anni sono? Cui... Come? Gli anni sono? Sono gli anni della dittatura, sono gli anni della dittatura ancora. Più o meno? Quindi, dagli anni, dal 79 all'83. Però, ok, quindi già in questa fase le abuelas iniziano con gli appostamenti, diciamo. Sì, le prime restituzioni, okay. O meglio, i primi, come si dice, quando riescono a individuarli, sono durante la dittatura. Poi, quando riescono a ottenere degli strumenti, quello lì è negli anni successivi. Comunque, all'inizio non esistevano strumenti legali. Cioè, immaginatevi poi in un contesto dove il governo le dava delle pazze, erano le la madre locas, la chiamavano, no? Dove l'apparato mediatico sosteneva e tamburellava con questa idea. Voi ora immaginatevi in una situazione dove una famiglia non ha strumenti e la madre locca va e dice: quello è mio nipote. Ovviamente sì, era una situazione esasperante. Certo. Poi ovviamente mi immagino che appunto, vista anche questa cosa, l'opinione pubblica a quel tempo in Argentina, al di là dei media che immagino fossero controllati in un modo o nell'altro dalla dittatura, ma anche proprio la gente, non penso che ci credesse molto a queste, perché appunto erano le madri pazze, quindi... Sì, in realtà c'era una buona parte della società, che è quella che aveva sofferto, la crisi, perché... Cioè, da ricordarsi che la dittatura argentina fu accompagnata da una crisi economica pesante, perché era una dittatura ultraliberista, quindi c'era una parte della società che era, diciamo, solidario alle madri e alle abuelas. Il fatto è che era tutto molto fresco, era molto difficile riuscire a muoversi in un contesto così, dove ancora stavano sparendo delle persone per mano dei militari, dove si aveva molta paura, dove non ci si poteva riunire, e per questo appunto le madri e le abuelas camminavano in Plaza de Mayo, no, perché non potevano rimanere fermi più di tre persone, se non sbaglio, non potevano sostare nello stesso luogo, perché sennò veniva già il gendarme, il poliziotto a fare dei controlli. Quindi all'inizio era un po' una situazione molto complicata, cosa che cambia con l'arrivo di Alfonsín e il ritorno della democrazia, tra virgolette, una democrazia ovviamente borghese, dove iniziano anche a esserci le prime testimonianze dei sopravvissuti, dei centri che qua vengono chiamati centri di concentramento, come Auschwitz, cioè qua hanno la stessa valenza, diciamo, semantica, delle prime testimonianze, dove all'interno di queste testimonianze si può leggere che molte donne che erano state sequestrate mentre erano incinta avevano dato la luce nelle carceri, in questi centri clandestini. Quindi lì si apre un nuovo mondo, dico, per le abuelas. Certo. Oltre ai bambini scomparsi, ci sono anche quelli nati direttamente nei centri clandestini. Okay. Però è una sfida molto più grande, perché uno non sa né il sesso, non sa bene quando è nato, non sa se è vivo o morto. Diciamo si costruisce, non è che si costruisce, si crea tutta un mondo molto più complicato e complesso a sua volta. Allora, il mio secondo robottino della regia, che non è nient'altro che il mio telefono, mi dice che è quasi finito il nostro tempo su Zoom e dobbiamo creare un nuovo link, quindi io colgo la palla al balzo per farti presentare la seconda canzone tra quelle che hai scelto. Sì, la seconda canzone, ho scelto un gruppo argentino, si chiamano Dos Minutos, che è un gruppo punk rock, delle sonorità po' stile NoFX, un po' più crudi, che però hanno il cuore poi, no? Perché parlano del quartiere, parlano di calcio, parlano della socialità nei bar. E questo pezzo è un pezzo che io volevo dedicare a tutti gli sbirri mancati che durante la quarantena si sono voluti a ergere a protettori della società. E quindi questo pezzo si chiama Siano Sussi Igual, ormai non sei più lo stesso, ed è dedicata, e loro la dedicavano a un amico che prima andava al bar con loro e poi è diventato polizia. E il ritornello dice Sos Buccion, che sei praticamente come i vicini di casa e durante la quarantena spifferano quelli che escono o quei pezzenti che dicono: ma guardate quel bar a due tavolini messi fuori posto. Al posto di andare ad avvisare il barista, che magari non lo sa, chiama la polizia e fa, è uno spifferone. Quindi è un pezzo che dedico a tutti questi qua. Ok, quindi Ya No Sos Igual di Dos Minutos, dedicato a tutti gli infami da balcone che si sono rivelati tali in quarantena. Noi ce lo ascoltiamo, nel frattempo creiamo un nuovo link di Zoom e ci risentiamo sempre su Radio ZM. Rieccoci di nuovo qui su Radio ZM, questi erano i Dos Minutos, e pezzone tra l'altro, Niente, torniamo col nostro racconto. Eravamo arrivati a quando le abuelas scoprono che in questi centri di detenzione, queste prigioni, tante delle loro figlie scomparse hanno partorito dei bambini che chissà dove sono finiti. Sì, sì, quindi si apre, diciamo, un capitolo diverso, tanto per le famiglie che per l'associazione, che quindi inizia ad attrezzarsi, chiedere aiuto a specialisti nel campo giuridico, specialisti nel campo medico, alla polizia stessa, alle commissioni che sono state formate durante i primi anni della democrazia, come la CONADEP, è stata la commissione che si è occupata di analizzare tutti i casi dei desaparecidos, e Abuelas, che questa è la sua caratteristica, che è sempre stata, che diciamo che la differenza un po' dalle altre associazioni, è riuscita a inserirsi in un contesto istituzionale dove era molto difficile al tempo, perché appunto c'erano i rimasugli ancora della dittatura. Sappiamo tutti che le dittature non spariscono come le briciole dal tavolo, certo. quando si passa la mano. Il fatto, diciamo, un fatto importante che può essere segnalato oggi è che diciamo gli anni dopo la dittatura, quindi i primi anni della democrazia, dove c'era un governo radicale, Raul Alfonsín, erano anni dove il governo provò a fare dei processi ai generali e ai colpevoli, tanto della dittatura che dei vari crimini che si sono perpetuati durante quegli anni. Però appunto dei rimasugli, soprattutto nei militari, e delle sollevazioni anche militari, hanno portato che nell'86, nell'87, tramite appunto delle spinte e delle minacce di un nuovo attacco da parte dei militari al governo democratico, ha fatto sì che il governo decretasse due leggi. Una si chiama la ley de punto final, che è una sorta di amnistia, tipo l'amnistia Togliatti in Italia per i fascisti. Sì. Dove chi aveva commesso i crimini o chi era sotto processo per dei crimini commessi durante gli anni della dittatura cadeva in prescrizione. E poi l'altra legge è la ley de obediencia debida nell'87, che diciamo fa cadere le responsabilità penali dei sottufficiali o di chi era sotto, diciamo gerarchicamente, nei militari. Cioè quella legge diceva: io l'ho fatto perché sono stato obbligato. Quindi spariscono gli strumenti per fare dei processi ai colpevoli, e gli unici che rimangono sono appunto quelli di sottrazione di minore, traffico illecito di minore, sottrazione di identità, se non sbaglio sono un sacco di aggravanti che ora mi scuso ma non ricordo. Quindi le abuelas in quel momento hanno in mano, diciamo, sono le detentrici degli strumenti per processare i colpevoli della dittatura, ma anche colpevoli della sottrazione dei bambini. Quindi spingono per riuscire a trovare dei metodi che possano diciamo che possano confermare i loro dubbi, o che possano confermare il fatto che il bambino che avevano visto nel giardino della casa di una vicina era suo nipote. Quindi riescono a entrare in contatto con un'equipe di biologi medici dell'Università di California, e riescono a, diciamo, non le abuelas, le abuelas hanno spinto a far scoprire a questa equipe un nuovo modo di analizzare i codici del DNA, che viene chiamato indice di Abuelidan. Cioè le abuelas sono riuscite con l'aiuto di questa equipe, a dimostrare geneticamente che sono che quei bambini sono i nipoti, senza avere una generazione, perché sino a quel tempo l'unica maniera era fare il test di paternità o il test di maternità, ma in questo caso c'è una generazione che manca. Eh sì, perché sono desaparecidos, quindi giustamente non sì, ci sono. Quindi questa equipe ricostruisce gruppi familiari genetici, e tramite questi gruppi familiari riescono al 99,9% a confermare che tal dei tali, che Pinco Pallino, appartiene al gruppo familiare Pinco Pallino. E questo è, diciamo, forse una delle cose più importanti che riescono a fare, che sono riusciti a fare, perché a mettere appunto questo test. Sì. In che anno sono riusciti? In che anni? No, stiamo parlando degli anni 80. Anni 80, ok. Sì, fine anni 80, 80, 80. Perché diciamo che poi l'altra cosa molto importante legata appunto a questo dei gruppi familiari è che spingono lo Stato a creare nell'87 una banca di dati genetici, cioè tutte le famiglie vanno e depositano il loro sangue, i gruppi familiari, quindi il fratello del desaparecido, la madre, lo zio, cioè più familiari ci sono, vanno a formare dei gruppi familiari appunto in questa banca genetica, dove poi una persona, questo oggi per esempio succede, se una persona, una persona che ha dei dubbi sulla sua origine biologica, tramite le carte si vede che ci sono state delle irregolarità, va in questa banca e si fanno i test per vedere se è uno dei tanti che si stanno ancora cercando. Quindi questo nell'87 riescono a spingere lo Stato, perché occhio, perché è lo Stato che si occupa, quindi c'è anche una presa di coscienza da parte dello Stato, no, di questo, certo, problema, di prendere, di cercare di in qualche modo non di riparare, però perlomeno di chiarire questa vicenda, diciamo. Sì, tanto di chiarire meno. Perché sì, e gli anni 80, occhio che ancora sono degli anni molto difficili, diciamo, per le abuela, dove ancora la società è divisa. Dove molti le vedono ancora come la loca, la madre loca, però diciamo che lo Stato comincia a riconoscere le cose, a riconoscere l'importanza anche dei processi di giustizia, quello o di memoria, quella che qua viene chiamata memoria verità di giustizia. Okay. Quindi sì. No, secondo me potremmo potremmo un po' appunto cercare, diciamo, di a questo punto di mettere, di chiudere un po' la parte storica e tenere un po' l'evoluzione un po' da questo punto in poi, magari per la prossima volta che faremo questa chiamata. E magari se ci puoi dire un po', tipo, in questo momento la conta dei ritrovati per adesso, se sì, quante... Al giorno d'oggi sono stati ritrovati 130 nipoti, ne mancano circa 400 più o meno. Ovviamente le persone che si cercano sono persone sulle quali c'è una denuncia di sparizione, quindi è chiaro. Poi ci sono tutte le altre che sono sottostimati, cioè che molti magari non sapevano che la figlia era incinta, molti, nel senso, quindi le persone che si cercano sono persone le quali c'è stata una denuncia a un'istituzione. Ah, certo. Sono le persone di cui si è riuscito a ricostruire che avessero avuto uno di questi parti nelle... Sì, parti o che sono... Era lontani dalla famiglia, semplicemente. Sì, sì. Cioè, ci deve essere una denuncia. Okay. Questa è la base, cioè lo stesso. Cioè, Abuelas si muove comunque all'interno delle istituzioni e per processi con processi che coinvolgono le istituzioni. Certo. E i nipoti anche sono, mi dicevi, istituiti, no, come associazione a sé stante? No, in realtà no. Cioè, no, c'è un'associazione che si chiama Hijos, che non è solo dei nipoti, anzi, cioè nasce prima come figli in generale dei desaparecidos. Si chiama ICO, okay. Queste sono tutti organismi di diritti umani che sono uniti in una tavola rotonda comune, si muovono sulla stessa linea. Poi su internet ognuno ha la pagina Facebook, le pagine ufficiali, tutti i social, tanto Abuelas come Hijos. No, diciamo che i nipoti, quelli che oggi si sono avvicinati, perché questa si potrebbe fare un'altra puntata anche su come reagiscono i nipoti. Infatti una delle domande che mi era venuta in mente, che però mi sono detto magari è meglio tenerla per un futuro. Perché ovviamente ogni caso è a sé, sono situazioni completamente... sono situazioni molto difficili, molto, alcuni reagiscono in una maniera, altri accettare. Quelli che diciamo si sono avvicinati all'associazione in forma anche attiva stanno dentro l'associazione, cioè lavorano con Abuela principalmente. Poi ora un nieto che è stato restituito nel 2004 ora è ministro di produzione, Juan Cabandier. Un altro è segretario dei diritti umani, cioè il sottosegretario al ministro di giustizia. Un'altra è presidente della INADI, un'altra istituzione. Nel senso che dopo aver scoperto la propria identità, la maggior parte hanno cominciato anche un attivismo politico dentro il peronismo. Poi invece dell'associazione Hijos è un'associazione invece che raggruppa i figli di desaparecidos, di esiliati, figli e figlie. Sono la stessa cosa, però sono legate. Ok, no, io volevo intanto ringraziarti perché come già in un'altra diretta dal Nuovo Mondo che abbiamo fatto in precedenza, come abbiamo già detto, questo è veramente un mondo che in Italia purtroppo è semi sconosciuto, cioè che assolutamente se ne parla pochissimo e è proprio un sentito dire, non si ha la conoscenza. E peraltro è interessante anche pensare che, per esempio, molte di queste persone come che questo argomento sia un argomento totalmente ignorato appunto in Italia, anche da quelle persone che parlano sempre, no, della difesa anche degli italiani, delle cose, quando anche molte persone erano appunto italiani o parte della migrazione, poi sono finiti anche in Italia. Comunque sono anche c'è un'influenza, anche se anche solo te, Matteo stesso, nel senso, in qualche modo la tua storia deriva da quella. E la, sì, insomma, sì, sì. È interessante come sia un mondo comunque che in Argentina o anche qua in Uruguay, questo in generale sull'italiano, però in generale il processo anche Condor, per esempio, è stato fatto in Italia perché molti torturatori e militari sono finiti poi in Italia e molte anche delle vittime erano cittadine italiane comunque. Esattamente. E anche grazie all'associazione 24 marzo che si è impegnata per portare avanti il processo. Sì, chiaro. Beh, quindi Matteo, mi sa che ormai te la devi accollare, sarai un nostro ospite frequente alle prossime dirette dal Nuovo Mondo. Perché veramente, cioè, oggi il racconto che ci hai fatto, le cose che ci hai detto, secondo me sono state, a parte, iper interessanti, ma poi hai fatto veramente un resoconto super chiaro, super dettagliato. Prima mi veniva quasi da ridere quando hai detto scusate se non mi ricordo quel particolare, cioè, perché veramente ne sai tantissimo. E io ti direi, come abbiamo aperto la trasmissione, la chiudiamo con un'ultima canzone sempre scelta da te. Sì, l'ultimo pezzo è un pezzo di un gruppo sardo dove suonavo, il Cuore Figau, significa cuore fegato, e questo invece è un augurio a questa nuova fase che sta attraversando l'Italia, questa nuova apertura, è un augurio a riprenderci gli spazi che avevamo prima, a condividerli, un augurio alla socialità, non a un ritorno dalla normalità, perché a parer mio il mondo che vivevamo prima non era molto normale, però diciamo per migliorare un po' anche noi stessi, che questi mesi siamo stati tra le mille difficoltà per tutti per riflettere e migliorarsi. Quindi è un augurio che faccio a tutti a riprendersi gli spazi con le modalità giuste, i tempi giusti, la quantità di alcol giusta. Bravo. È un pezzo che parla di alcol. Ok, quindi il pezzo che andiamo per sentire è di Coroen Figau, come si chiama la traccia? All friends. Vecchi amici, godiamocela. Vi salutiamo, vi ricordiamo che sul nostro canale Telegram di Radio ZAM potete trovare tutte le dirette di tutti i programmi in tempo reale quando arrivano, che sul sito di ZAM, collettivo-zam.org, mi sembra, adesso vado a controllare al volo, potete trovare tutti i podcast di tutte le trasmissioni. Ecco, sono andato a controllare e il sito corretto è zam-milano.it, quindi non ci avevo beccato un cazzo. E niente, quindi potete veramente stare in contatto con noi e seguirci sempre su queste frequenze. Quindi un saluto a tutti e tutte, e voi ci sentirete domani pomeriggio, quindi buon pomeriggio e a star bene. Ciao a tutti e a tutti. Ciao Matteo, ciao Cesare. Ciao a tutti e tutte.